2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 27 dicembre 2008, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it, potete scrivere una email per qualsiasi motivo. Ringraziamo gli ascoltatori che ogni settimana ci scrivono per suggerimenti, anche per domande. Alcuni devono ancora ricevere risposta, cercheremo di rispondere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet, potrete riascoltarla grazie al servizio podcast, quindi abbonarvi gratuitamente a questo servizio che è una nuova modalità per erogare contenuti audio o video, ma nel nostro caso parliamo di audio. Un nuovo modo per fare la radio, un nuovo modo anche per tutti coloro che in modo amatoriale vogliono produrre contenuti audio o video, che possono poi metterli a disposizione su internet in un modo piuttosto semplice. Tutte le informazioni sono online, oppure scriveteci una email e vi daremo le indicazioni per abbonarvi gratuitamente e così aggiornare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione, anche per crearvi un piccolo archivio sul vostro computer o sui vostri hard disk esterni. Sono sempre più gli ascoltatori che acquistano una soluzione esterna, un hard disk, una serie di hard disk per fare il proprio archivio, per fare anche il backup dei propri dati. Questo è sempre molto importante, backuppare e salvare i propri dati. Di che cosa ci occuperemo in questa puntata? Oggi parleremo ampiamente e vi proporremo un'intervista estremamente interessante. Parleremo di reti, ma di reti, delle grandi reti che portano internet da una parte e dall'altra del mondo, quelle che servono proprio per la grande rete internet, per trasportare gigabit di dati. Una notizia di questa settimana: ricorderete che qualche tempo fa Vodafone aveva annunciato che dalla primavera in alcune zone d'Italia offrirà connessioni ad internet in mobilità a 16 megabits. Per qualche giorno fa Telecom Italia ha annunciato l'arrivo della tecnologia HSPA+. Sapete che l'HSPA è una sorta di evoluzione dell'UMTS, questa che è stata annunciata è un'evoluzione ulteriore dell'HSPA che dai primi mesi del 2009 permetterà appunto ad alcuni clienti di Telecom Italia, quindi di TIM, permetterà connessione ad una velocità pari a 21 megabits in download e 5,7 in upload, velocità che crescerà poi fino a 28 megabits nella seconda parte del 2009. Come sentite, ormai ci si fa concorrenza anche a colpi di annunci, anche se queste tecnologie ancora non sono disponibili, e come sempre è bene attendere il giorno in cui questi servizi saranno effettivamente funzionanti. Sapete che alcuni dei nostri collaboratori poi provano anche effettivamente questi strumenti per vedere se le velocità annunciate, dichiarate, sono effettive. Quasi mai lo sono. In ogni caso, appunto, come diciamo spesso, a 2024 ricordate che le velocità sono velocità di picco, raggiunte in condizioni ideali, che degradano velocemente in rapporto alla lontananza dall'antenna, dall'eventuale velocità di movimento e soprattutto anche dall'affollamento che c'è su quella determinata antenna, su quella cella a cui ci si collega. Questo infatti è uno dei fattori più critici per le connessioni UMTS. C'è poi un altro aspetto molto importante: le antenne di telefonia mobile sono collegate ad internet con il cavo, quindi quando siamo fortunati con la fibra ottica, quando siamo sfortunati con una DSL, quindi noi arriviamo all'antenna, poi da quell'antenna con un collegamento via cavo ci si connette alla rete internet vera e propria. Bene, tutti conosciamo quali sono le capacità e le velocità delle ADSL, quindi dove non c'è la fibra ottica queste antenne sono collegate con la DSL e perciò velocità superiori ai 10 o 20 megabits non possono certo essere raggiunte, quindi in alcune aree del paese con alcune antenne questi valori sicuramente non possono essere promessi. Insomma, come abbiamo già ripetuto, a parte il grande e indiscusso vantaggio della mobilità e in alcuni casi anche la flessibilità delle offerte che non richiedono impegnativi abbonamenti, dove è possibile è preferibile. Ai collegamenti UMTS è preferibile un collegamento ADSL o addirittura, per chi è fortunato, in fibra ottica. A proposito di cavi, che cosa c'è oltre al collegamento ad internet che arriva nella propria casa, nel proprio ufficio? Una maglia, una grande rete di grandi dorsali molto importanti, sempre più importanti, tant'è che quando una di queste maglie, uno di questi cavi con altissima capacità si blocca, si crea qualche problema. Oggi vogliamo proprio parlare delle cosiddette autostrade che trasferiscono grandi quantità di dati da una parte all'altra del paese, che collegano i continenti, insomma, che fanno parte del cuore di internet. Saluto Renzo Ravaglia, che è amministratore delegato di Interroute. Interroute è uno dei più importanti protagonisti di questo settore, uno dei più grandi gestori di reti in fibra ottica. Ravaglia, bentornato a 2024. Grazie Enrico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dicevo che voi gestite parecchi chilometri, migliaia, forse molti di più, chilometri di reti in fibra ottica. Questo significa che voi state un po' dietro alle quinte, non il consumatore finale quando si collega ad internet, che sia un'azienda o che sia una persona che sta in casa, non vi vede, ma quella che voi gestite è una parte importante, forse fondamentale, della rete internet. Che cosa fate? Beh, i 55.000 chilometri di fibra ottica che sono stati illuminati portano una grandissima percentuale del traffico internet. Ogni volta che un'azienda, un consumatore accede a internet o anche solo per telefonare, soprattutto se riguarda connessioni tra l'Italia e gli altri paesi d'Europa o del mondo, è molto probabile che usi i cavi in fibra ottica di Interroute, che usi 55.000 chilometri, perché con la nostra rete colleghiamo tutti i principali internet exchange center che esistono in Europa, ne colleghiamo anche diversi al mondo e con una capacità di trasmissione tale che possiamo veramente dire che buona parte del traffico internet mondiale viaggia sulle nostre reti. Sì, tu hai citato gli internet exchange, i cosiddetti mix, abbiamo parlato 2024 dell'importanza che hanno questi centri di scambio e sostanzialmente la rete appunto si scambia dati in questi luoghi che sono interconnessi un po' in tutto il mondo. Ci sono grandi aziende che erogano servizi, grandi nomi della rete, che addirittura hanno una capacità di transito proprio su questi luoghi. Esattamente, tutti i grandi operatori possiedono, arrivano con le proprie fibre ottiche presso gli internet exchange e poi con una rete magliata, quindi con tanti percorsi, tanti instradamenti alternativi, riescono a collegare i vari punti. Perché devono collegare i vari punti, i vari internet exchange? Perché è proprio in queste mega LAN che hanno luogo presso i vari internet exchange che ci scambiamo i pacchetti. Ogni pacchetto internet ha un indirizzo, un indirizzo sorgente, cioè io che lo genero, ma anche il tuo indirizzo destinazione, Enrico, che è l'indirizzo a chi è destinato il pacchetto che io sto inviando. Bene, negli internet exchange queste avvengono gli scambi, per cui il pacchetto che arriva dalla mia rete viene consegnato alla rete di un altro operatore che casomai è quello che ti collega, che ti consegna direttamente il traffico. Quindi questi sono i nodi vitali, i gangli fondamentali della rete internet, e allora un operatore deve arrivare e uscire da questi internet exchange con la più grande capacità possibile. Noi tipicamente ci arriviamo con capacità che vanno 20, 40 o addirittura 100 gigabit al secondo, perché il traffico sta esplodendo in una maniera tale che bisogna essere pronti a coglierlo fino all'ultimo bit. Sì, il vostro linguaggio è un linguaggio diverso da quello che usiamo nelle nostre case. Fino a qualche tempo fa ragionavamo in kilobit, adesso in megabit, poco in gigabit, molto poco in gigabit, invece per voi il gigabit è pane di tutti i giorni. C'è stata in pochissimi anni una transizione, fammela usare la velocità della luce, tanto per usare una terminologia a proposito di fibra ottica della fibra ottica, nel senso che fino a 4 o 5 anni fa, quando un cliente chiedeva una connessione a 100 megabit al secondo, era già considerato un cliente veramente importante e nessuno praticamente chiedeva 10 gigabit al secondo. Oggi è difficile che si scenda al di sotto di un gigabit, i 10 gigabit ormai sono diventati quasi la norma. Questo ha reso possibile dall'evoluzione tecnologica, che consente disponibilità di banda a costi veramente contenuti, e il, appunto, la cosa più importante è una notevolissima riduzione dei costi, per cui il costo di alcuni anni fa di un 100 megabit equivale al costo oggi di un 10 gigabit. Questo è dovuto, come dicono alcuni, all'esplosione dei servizi prevalentemente video, cioè si consuma molto video e quindi tutto il traffico della rete è aumentato o non solo? Nel passato le telecomunicazioni erano quasi unicamente voce, oggi la voce è veramente una cosa residuale, anche quel po' di voce è comunque su IP. Quali sono le applicazioni che invece sono le più importanti? Sono certamente le applicazioni dati per le aziende, per le industrie, il peer-to-peer, che è di una importanza fondamentale, e il video. Probabilmente il peer-to-peer è ancora più importante del video. Noi abbiamo delle statistiche molto interessanti che fanno vedere che mentre una volta durante i weekend nelle ore notturne c'era un crollo del traffico, perché il traffico si concentrava soprattutto durante le ore lavorative, durante le ore della giornata, e nei weekend o di notte era marginale, adesso non è così. Addirittura abbiamo delle situazioni opposte: durante le serate del weekend raggiungiamo i picchi di traffico. E che cosa sono dovuto? Che ci sono tantissimi navigatori che fanno peer-to-peer, che scaricano e riempiono la rete più di quanto non la riempiano le aziende il lunedì a mezzogiorno. Sì, cose che non dovrebbero essere fatte, ma molti fanno, pensando di essere nascosti nelle loro case, ma sappiamo insomma che da un lato l'industria dei contenuti, da un lato le forze dell'ordine stanno, anche se molto lentamente, prendendo contromisure. Chissà queste contromisure come poi voi le vedrete nei prossimi anni, se riuscirete a vederle anche in termini di traffico. Quindi è vero che, come alcuni sostengono, nel 2008 forse questo è stato l'anno in cui il traffico e i bit generati dai consumatori finali, quindi da chi sta collegato ad internet davanti al computer di casa propria, ha superato quello delle aziende. Forse questo è stato l'anno. Probabilmente il 2008 è stato l'anno della svolta, e questo non perché è diminuito il traffico ovviamente usato dalle aziende, anzi è aumentato anche quello, è che quello usato dal consumatore, soprattutto ripeto per il peer-to-peer, è aumentato sensibilmente. E probabilmente, a meno che non avvengano dei fatti legislativi che lo rendano difficile, se non impossibile, ovviamente penalmente perseguibile, è probabile che questa forbice si allarghi ulteriormente. Sì, sì. Dunque, alcuni dei nostri ascoltatori ricorderanno che la scorsa settimana io ho citato, ho parlato di un caso che è successo al largo delle coste dell'Egitto, dicendo che sono state interrotte le comunicazioni tra l'Egitto, il Medio Oriente, parte dell'Asia con l'Europa, perché alcuni cavi sottomarini sono stati tagliati. Voi gestite anche cavi sottomarini, cioè tra le tante reti in fibra ottica che avete, alcune passano anche sotto al mare. Esattamente, gestiamo anche cavi sottomarini. Ora, non so se è il caso vostro, non so se siete coinvolti in questo guasto che ha coinvolto alcuni cavi sottomarini nel Mediterraneo, però vorrei cercare di capire che cosa è successo, ma soprattutto cercare di capire anche per quale motivo, se un cavo sottomarino o un gruppo di cavi sottomarini che collegano una zona geografica con un'altra si bloccano, vengono tagliati, c'è un guasto e quindi si interrompono le comunicazioni, qualche cosa alla rete internet succede, quando noi sappiamo che invece internet è stata congegnata in un modo per il quale, se una strada non funziona, automaticamente si trovano altre strade. Allora, ripartiremo da qua tra poco. Ricordo agli ascoltatori, ma lo abbiamo ricordato anche la scorsa settimana, appunto questo guasto ha coinvolto in modo particolare l'Egitto, alcuni paesi del Golfo Persico e anche alcuni paesi dell'Asia, che si sono visti venir meno all'improvviso qualche giorno fa le comunicazioni con l'Europa in modo particolare. Anche questa puntata di 2024 sarà disponibile sul nostro sito internet andate su www.radio24.it e poi scegliete tra i programmi 2024-2024. In questa puntata ci occupiamo del cuore della rete internet. È con noi Renzo Ravaglia, che è amministratore delegato di Interroot, una società tra le più importanti di quelle che gestiscono grandi reti, migliaia di chilometri di fibra ottica in giro per il mondo. Dunque, ci eravamo lasciati con una domanda: che cosa è successo al largo delle coste siciliane, al largo delle coste dell'Egitto, insomma nel Mediterraneo, dove c'è stato un guasto in via di riparazione in questi giorni, un guasto che ha creato qualche problema soprattutto all'Egitto, a qualche paese medio orientale, anche all'Asia, e soprattutto per quale motivo una rete come è la rete internet, se perde un cavo o alcuni cavi in una zona geografica, crea alcuni problemi in alcuni paesi, aree geografiche del paese. Ravaglia. Dunque, prima di tutto, i cavi sottomarini danneggiati non sono stati 3, ma sono 6. 6. Non abbiamo ancora una certezza di che cosa possa essere accaduto. E per l'ipotesi però più probabile in questo momento è che sia stata la conseguenza di un terremoto che ha avuto luogo al largo di Siracusa, che dovrebbe aver interrotto questi cavi, perché poi i cavi si sono interrotti in due zone relativamente concentrate, 3 al largo di Alessandria d'Egitto e 3 nel canale di Sicilia, nel tratto tra la Sicilia e Malta. Quindi l'ipotesi più probabile è questa, perché le altre ipotesi che tipicamente ci sono, quindi ancore o pescherecci o navi in difficoltà, non potrebbero aver colpito contemporaneamente in posti diversi, e non si può pensare a un atto di sabotaggio. Quindi i pirati non c'entrano niente in questo caso. È molto difficile che possa aver avuto luogo un fatto di questo genere, quindi probabilmente in questo momento almeno la spiegazione più accreditata, sì, anche se non ancora confermata, è questa. Ci vorranno un bel po' di giorni ancora prima che tutti i cavi vengano riparati. La previsione in questo momento è che l'ultimo cavo venga riparato l'1 o il 2 di gennaio. Tutte le navi disponibili sono state mobilitate e sono in azione, stanno arrivando sul posto per rimediare e recuperare, giuntare i cavi nel più breve tempo possibile. La tua domanda però, credo che almeno la cosa che possa interessare più gli ascoltatori, è come mai un guasto di questo genere anche in una rete internet che per definizione Magliata. Quella che cerca sempre magliata di trovare delle soluzioni alternative, come mai ha sofferto? Innanzitutto perché comunque il numero di rami della magliatura è un numero finito, e quando se ne interrompe più di uno è chiaro che quelli che rimangono non ce la fanno a sopperire a tutto il traffico. Inoltre, oltre alla diminuzione della capacità disponibile, non è stato completamente interrotto perché si è fatto fare il giro del mondo in senso opposto, cioè i cavi che dall'Asia arrivavano in Europa, arrivati a Hong Kong, invece di venire verso ovest, verso di noi, hanno proseguito verso gli Stati Uniti, attraversato gli Stati Uniti, e il traffico quindi è arrivato in Europa in senso opposto. Questo automaticamente succede? No, sono normalmente degli accordi che si fanno in tempo praticamente reale. Quando c'è un guasto ci si protegge la capacità, però sulla base della capacità disponibile, quindi molta ma molto meno rispetto a quella necessaria. Quindi in questo momento stiamo comunque avendo ancora molti circuiti che non è stato possibile reinstradare, e quelli che funzionano non hanno una prestazione, una performance paragonabile a quella che avevano precedentemente, perché i ritardi di propagazione sono molto più lunghi, praticamente facciamo il giro del mondo. C'è una cosa interessante relativa ai cavi sottomarini, o comunque ai grandi cavi che portano il grande traffico della rete internet, che se uno guarda allo sviluppo di questi collegamenti può vedere quanto si stanno sviluppando alcuni paesi o alcune aree geografiche. In particolare sono interessato al Mediterraneo, visto che il Mediterraneo pare sia diventato uno dei tanti hub, quindi un punto dove si concentra molto del traffico della rete internet. È vero? E soprattutto questo traffico da chi viene scambiato all'interno del Mediterraneo? Sì, posso fare una storia in pillole veramente velocissima. Il mondo internet in Europa è nato aggregandosi su due realtà principali, Londra e Amsterdam. Dopodiché, perché Amsterdam e Londra, perché diciamo vedevano soprattutto gli Stati Uniti, perché erano gli Stati Uniti il punto fondamentale del mondo internet. Dopodiché c'è stata anche l'esplosione dell'Asia, e attraverso questi cavi sottomarini, quelli che si sono guastati adesso, che arrivavano a Londra e Amsterdam, queste due città hanno acquisito un ruolo ancora più importante di prima, sopravanzando addirittura i punti analoghi, gli internet exchange americani. Oggi Londra e Amsterdam sono più importanti, scambiano più traffico di quanto non si scambino negli Stati Uniti. Parallelamente ha avuto luogo una esplosione incredibile, che sta andando avanti molto molto bene, di Francoforte. Perché Francoforte? Perché Francoforte è stata capace di aggregare tutto il traffico proveniente dall'est Europa, che è un traffico in forte crescita. Francoforte è un po' la, se vogliamo, la Germania, il confine verso il mondo dell'est, è stata capace di aggregare il traffico, e Francoforte oggi è il terzo polo europeo. Se invece guardiamo in prospettiva, allora possiamo trovare un potenziale importantissimo ruolo anche per l'Italia. Per quale motivo? Perché, come hai accennato tu, il traffico, il bacino di traffico che dovrebbe esplodere nei prossimi anni, e che è già cresciuto moltissimo recentemente, è quello dell'Africa. L'Africa ha 800 milioni di abitanti, con un tasso di penetrazione di internet ancora bassissimo, che penetrerà. A questo punto il traffico che arriva dall'Africa sarà un traffico assolutamente di importanza notevolissima. Sì. L'Italia è nelle condizioni di intercettarlo, perché di nuovo ci saranno cavi che arriveranno e passeranno dall'Italia. Allora, riusciremo a farlo andare via, ad arrivare ad Amsterdam, Londra o Francoforte per scambiare, per arrivare in internet exchange, o riusciremo a intercettarlo e far sì che Roma, Milano, Palermo, la Sicilia possano diventare uno degli hub fondamentali del traffico internet, soprattutto in quest'ottica Mediterraneo, Middle East e Africa? Beh, ovviamente la speranza che ho come rappresentante di Interut e come cittadino italiano è che si riesca a intercettarlo. L'Italia ha tutte le possibilità di farlo. Se si capisce l'importanza, si riescono a trovare a determinare le condizioni che lo favoriscano, abbiamo la possibilità di diventare veramente il quarto polo per importanza di traffico in un prossimo futuro. E per fare questo è necessario un impegno solo dell'industria, quindi del privato, o anche della pubblica amministrazione, dello Stato, o delle regioni magari? Certamente l'impegno delle aziende, degli operatori di telecomunicazioni quali Interut e i nostri colleghi è assolutamente fondamentale, ma l'impegno e il ruolo della pubblica amministrazione è importantissimo. Chi è oggi il principale concorrente dell'Italia? È Marsiglia. Perché Marsiglia? Perché i cavi sottomarini che vengono o dall'Africa o dal Middle East possono fermarsi in Sicilia oppure proseguire per Marsiglia. Perché oggi Marsiglia è preferita all'Italia? Perché la normativa, la legislazione che c'è in Francia è più semplice. Ottenere i permessi per far arrivare un cavo sottomarino è molto più semplice in Francia di quanto non sia in Italia, e quindi, visto che il tempo è una variabile fondamentale quando si prende decisioni di questo genere, il timore che la burocrazia italiana possa rallentare o ostacolare questo processo fa sì che si preferisca andare. Quindi una normativa semplice che ci consenta di far arrivare i cavi sottomarini in Italia è molto utile. Il secondo aspetto che sta frenando abbastanza il costo dell'energia, perché le stazioni di testa dei cavi sottomarini assorbono molta energia, richiedono molta energia. L'energia costa, in Francia costa meno che in Italia, quindi i costi intrinseci a far arrivare un cavo in Italia sarebbero più alti, però teniamo conto che se riusciamo ad accorciare di 1500 km un cavo sottomarino, certo, abbiamo un risparmio notevole. Quindi la pubblica amministrazione può fare molto per consentire che l'Italia acquisisca un ruolo importante su quella che è stata chiamata, e secondo me è giusto definirla così, la via della seta sulle tracce di Marco Polo. Passando sulla terra, si scava ancora. Io ricordo che all'inizio di questo millennio alcune città, Milano in particolare, ma insomma anche altre città, alcune zone del paese, erano frequentate molto spesso da ruspe che scavavano in lungo e in largo per fare passare cavi in fibra ottica. Oggi la situazione com'è? La situazione è nettamente cambiata, poi qualcuno potrà dire migliorata o peggiorata. Cambiata nel senso che si scava molto, ma molto, ma molto meno rispetto a prima. Gli investimenti oggi sono certamente molto più ridotti, molto più ristretti di quanto non fossero alcuni anni fa. Però si può pensare anche a qualche cosa di diverso. Non sempre è necessario scavare. È chiaro che in certe situazioni non si può fare diversamente, ma in altre situazioni si può pensare di utilizzare infrastrutture già esistenti, già disponibili. Se posso citare qualche esempio, si potrebbe benissimo utilizzare la rete della pubblica illuminazione. Ci sono dei tubi che collegano i pali della pubblica illuminazione, che noi potremmo tranquillamente, nel quale potremmo, in questi tubi c'è spazio, si potrebbero inserire delle fibre ottiche, si potrebbe utilizzare i tubi di nuovo della rete semaforica, si possono mettere cavi e fibra ottica in facciata, un cavo poi da 7-8 mm, certamente meno deturpante di quanto non sia una calata di antenna di un'antenna satellitare. Si possono usare perfino le fognature. In alcuni paesi mi sembra che lo stiano facendo. In Svezia, in Germania, alcuni paesi stanno facendo tubi dell'acqua, del gas dismessi, per non parlare poi di tutte le infrastrutture di Telecom Italia disponibili, soprattutto se pensiamo a quelle del progetto Socrate, che giacciono inutilizzate, che probabilmente si stanno riempiendo anche di detriti, che invece ci fosse la possibilità di utilizzarli, e soprattutto con un catasto aggiornato di queste infrastrutture, potrebbero essere veramente messe questo, in opera. Questo potrebbe anche essere, tra l'altro, un modo per fare cassa per le pubbliche amministrazioni locali, almeno i comuni, le regioni. Potrebbe essere un modo di fare cassa, o potrebbero anche essere viste in realtà, invece che come un modo di fare cassa, come un modo per rendere, per infrastrutturare il territorio, e quindi rendere disponibili queste infrastrutture per lo sviluppo dell'economia, dove c'è il digital divide, o sì, dove sì, sì, alcune aziende non sono collegate, alcuni settori, quartieri non sono collegati, la disponibilità di infrastrutture che coprono l'80% dei costi della realizzazione di rete telecomunicazioni renderebbe collegabile in fibra, fargli la next generation network. Poi parliamo anche di questo, ma la pubblica amministrazione, chiaramente ci sono diversità di vedute e di esigenze tra una piccola amministrazione, un comune, una regione e lo Stato centrale, ma tu vedi che ci sia qualche rappresentante della pubblica amministrazione, o comunque qualche pubblica amministrazione che vede l'investimento e lo sforzo per favorire gli investimenti e per mettere fibra, per collegare ad internet aree del paese che ancora non sono collegate, perché hanno capito che questa è la prossima rete dove si svilupperà poi anche la democrazia? Abbiamo assistito e stiamo assistendo in questi anni, negli ultimi 2-3 anni in Italia, a numerose iniziative positive in questo senso, che hanno visto regioni, che hanno visto comuni, che hanno visto province finanziare progetti per il superamento del digital divide, puntando soprattutto su collegamenti radio, su wifi soprattutto. Quindi cercando di utilizzare l'infrastruttura etere anziché l'infrastruttura fisica. Sono state iniziative valide, veramente anche da lodare, però secondo noi non risolvono il problema, è un pannicello caldo rispetto a un problema ben più grosso. Quindi abbiamo visto l'atteggiamento di interesse che hanno capito il bisogno per i propri cittadini di realizzare certe infrastrutture, probabilmente non nel modo corretto. La radio può essere una soluzione valida in termini di tempo, ma non è certamente la soluzione definitiva. Riprendiamo questa puntata di 2024, seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure online su www.radio24.it. Vi ricordo che è possibile abbonarsi gratuitamente al servizio podcast e quindi avere la possibilità di scaricare, oltre che gratuitamente, anche automaticamente le nostre puntate settimana dopo settimana. Andate sul sito internet di Radio 24, trovate tutte le informazioni, oppure in maniera molto semplice, molto veloce, inviateci una email e nel giro di poco tempo vi risponderemo con tutte le indicazioni per abbonarvi appunto e utilizzare quindi il servizio podcast. Naturalmente il podcast è una modalità che potete poi utilizzare con altri programmi, sia di Radio 24, ma in generale altri programmi audio o video che trovate in rete, una modalità molto comoda per poi riascoltare o rivedere contenuti digitali online quando volete, sul vostro lettore di file MP3 ad esempio, oppure ci sono alcuni ascoltatori che con una chiavetta USB se la portano in automobile e si riascoltano 2024 mentre magari vanno o tornano dal lavoro. ci sono sicuramente molte possibilità, la digitalizzazione dei contenuti ha reso tutto più flessibile, più liquido, come alcuni dicono. Stiamo parlando della grande rete internet, del cuore della rete, ma adesso vorrei parlare di quella che viene definita Next Generation Network, la rete di prossima generazione. Questo è un dibattito molto acceso tra gli addetti ai lavori, ma non dovrebbe essere relegato solo agli addetti ai lavori, perché qua si tratta di costruire la rete, la grande rete del futuro, un po' come tanti anni fa vennero costruite le strade, le autostrade. Costa molti soldi, quindi questo è anche un problema per il paese, soprattutto in un periodo dove i soldi non ce ne sono tanti a disposizione. È con noi Renzo Ravagli, amministratore delegato di Interroot, con il quale abbiamo già parlato della grande rete che oggi funziona e ci permette di scambiare dati in tutto il mondo. Ma a proposito del Next Generation Network, qual è il vostro parere? A vostro parere, ad esempio, tutto quello che si sta dicendo in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, è vero o gli annunci, le esigenze che sono state sottolineate sono forse un po' esagerate? Qua si parla di portare fibra ottica nelle case di tutti gli italiani, quindi una rete estremamente capillare. Ma ci fermiamo un secondo a riflettere su che cosa significhi Next Generation Network, la traduzione anche per chi non conosce l'inglese è molto semplice, rete della prossima generazione. Allora, io credo che nel momento in cui si definisce rete di prossima generazione si deve traguardare a un arco di tempo che sia dell'ordine di 15-20 anni. Quindi se la domanda è: abbiamo bisogno di cominciare oggi per realizzare una rete che poi diventi capillare e copra sperabilmente tutto il territorio o almeno dove vive il 70-80% della popolazione, abbiamo bisogno di una rete del genere in fibra ottica, iniziarla oggi in modo che gradualmente, ma nell'arco di 5, 10, 15, 20 anni possa coprire appunto 80% della popolazione? La mia risposta è sì. È impensabile che tra 20 anni si continui ad andare avanti con la rame che casomai è stato posato 80 anni fa. Quanti anni ci abbiamo messo per realizzare una rete in rame che coprisse tutto il paese? Certamente non è stata questione di un anno o due, ci sono voluti probabilmente 50, 70, 100 anni. Ora, questo è il momento di abbandonare, se vogliamo, gli investimenti, i potenziamenti o anche solo l'attività di manutenzione della rete in rame, che è costosissima e non ha prestazioni adeguate, e cominciare a investire nelle fibre ottiche. Ecco perché è un bisogno fondamentale del paese, è un'infrastruttura. È stata aperta la linea alta velocità Milano-Bologna in questi giorni. Quanti anni fa è iniziata? È iniziata tanti anni fa, perché per realizzare in misura significativa certe infrastrutture occorre tempo. Quindi la risposta di Interroot è certamente questa. Bisogna di Interroot, e come cittadino italiano penso di poter parlare in questo momento anche, è necessario iniziarla subito, non possiamo più perdere tempo, altrimenti il paese perderà ulteriormente competitività nei confronti dei nostri partner o concorrenti più significativi. A tuo parere, sia come cittadino ma insomma, soprattutto come operatore del settore, esperto del settore, è un'infrastruttura che potranno realizzare i privati oppure no? Un singolo privato non può realizzare tutta la rete di nuova generazione. In passato la rete di vecchia generazione, che però nel momento in cui è stata realizzata si poteva forse definire di nuova generazione, sì, anche quella, è stata realizzata da Telecom Italia, perché in un regime di monopolio era diritto dovere da parte dell'unico operatore realizzarla. Oggi siamo fortunatamente in un regime di competizione che ha portato tanti vantaggi ai consumatori e alle aziende, quindi non è pensabile che la possa realizzare uno solo. Questo deve significare anarchia? Secondo noi no, deve significare coordinamento. Se l'autorità per la garanzia delle comunicazioni stabilisse delle regole che a cui tutti adeguarsi, uniformarsi, delle regole di apertura che facciano sì che gli investimenti fatti da uno vengano sì a vantaggio di chi li fa, ma poi anche messi a fattore comune di tutti gli altri, e viceversa in un regime di scambio, di collaborazione, allora si può arrivare a una situazione in cui il paese ha una Next Generation Network di proprietà di chi? Non di un solo operatore, ma di una pluralità di operatori, di quelli che hanno la disponibilità e la potenzialità per investire le cifre significative di cui si parla, perché una rete, la Next Generation Network le stime parlano tra i 10 e i 20 miliardi di euro. Se però usiamo tecniche tipo quelle a cui accennavo prima sull'utilizzo di infrastrutture che coprono l'80% dei costi, probabilmente questa cifra può scendere più verso i 10 che verso i 20, che non è una cifra certamente trascurabile, ma forse è equivalente al costo del ponte di Messina, che probabilmente il vantaggio per il paese tra il ponte di Messina e un Next Generation Network, non c'è dubbio, credo che non sì, abbia dubbi. Evidente. Bene, io ringrazio Renzo Ravaglia per essere stato con noi, per averci raggiunto nei nostri studi. Buon lavoro e anche insomma, auguri per il 2009 che arriverà presto. Grazie Enrico, auguri di buon 2009 a tutti gli ascoltatori. Abbiamo parlato della grande capacità della rete internet, una capacità di trasferire dati da un punto all'altro del grande network che cresce mese dopo mese, e la grande capacità di questa rete internet permette oggi ad esempio di attivare comunicazioni video fluide, affidabili, stabili, ricche di dettagli. Si parla anche oramai di alta definizione. Adesso parliamo di videocomunicazione, un concetto che è entrato a far parte della vita di molti cittadini che magari dialogano su internet con i sistemi di messaggistica in tempo reale, che oramai permettono anche di associare non solo al testo e alla voce, non solo il testo e la voce, ma anche il video, insomma esperienza di molti navigatori della rete, magari di parlare con un amico e di vedersi con una webcam. Bene, questi sistemi vengono sempre più utilizzati anche dalle aziende che magari evitano qualche viaggio oppure fanno gli stessi viaggi, ma con questi sistemi magari si incontrano un po' più spesso. Ne abbiamo parlato con Michele Dalmazzoni, che è amministratore delegato di Tannberg Italia. Sì, beh, diciamo che oggi la videoconferenza ha raggiunto una maturità tecnologica assoluta, ormai parliamo di alta definizione e parliamo di soluzioni che possono essere disegnate su i vari tipi di utenti all'interno dell'azienda, quindi dall'impiegato all'amministratore delegato c'è la soluzione adatta per chiunque. Ci sono due trend fondamentali oggi sul mercato. Uno è quello che va verso, diciamo, la diffusione di massa, un concetto così possiamo definirlo di video democratico, per cui il video è accessibile a tutti tramite uno schermo di un computer o una webcam. L'altra invece è quella che va verso l'eccellenza senza compromessi e quindi addirittura sale e ambienti totalmente dedicati a questi incontri virtuali che noi troviamo sul mercato sotto la definizione di telepresence. Sì, quando facciamo riferimento a questi sistemi partiamo da sistemi anche consumer, ci sono dei sistemi di messaggistica in tempo reale che permettono di fare videoconferenza, l'evoluzione però si sta raffinando sempre di più. Sì, diciamo che i due mercati sono paralleli con delle contaminazioni evidenti. In genere l'esigenza del consumatore che lo utilizza a casa è totalmente diversa da quella di un'azienda in cui i criteri di sicurezza, affidabilità, scalabilità e ridondanza sono, come sappiamo, fondamentali. Quello che è importante da questo punto di vista è l'aspetto culturale. Diciamo che oggi questa tecnologia è una tecnologia che è tecnologicamente pronta, ma che, diciamo, che sconta ancora una non sufficiente, non adeguata conoscenza e diffusione. Quindi il fatto che oggi nuove generazioni, quelle che noi chiamiamo la Internet Generation, utilizzino la videocomunicazione sul proprio computer per il loro personal social network fa sì che poi quando vanno in azienda si aspettano che questi strumenti siano a disposizione anche sul posto di lavoro. Questo è un tipico esempio di consumerizzazione, la consumerization come dicono gli americani, cioè io uso sul computer di casa un certo sistema, un certo servizio e poi quando vado in azienda pretendo o comunque vorrei utilizzare la flessibilità di questi sistemi, e spesso ci si accorge che questi sistemi consumer sono meglio di quelli creati per le aziende. Questa ultima parte di 2024 è con noi Michele Dalmazzoni, che è amministratore delegato di Tannberg Italia. Tannberg è uno dei nomi più importanti nel settore della videocomunicazione, delle videoconferenze. Dunque, Dalmazzoni, una cosa interessante, anche perché questa è una parola che forse alcuni ascoltatori avranno sentito e sentiranno, la telepresenza. Che cos'è? Qual è il significato di questo concetto abbastanza nuovo? Sì, come accennavo prima, la telepresenza è un'evoluzione del mercato del video verso, come dire, un livello di utenza estremamente alto. Quindi parliamo di impianti di grande valore, di grande qualità, che hanno la capacità di rendere il più simile possibile ad un incontro reale un incontro in video. E quindi c'è questo effetto di essere nella stessa stanza. Quindi si parla di video ad alta definizione, si parla anche di servizi di assistenza e quindi di semplificazione dell'utilizzo di questi sistemi per far sì che tutto quello che io posso fare durante un incontro di persona, la stessa esperienza la posso vivere tranquillamente dal mio ufficio. E quindi, se lo traduciamo in termini di produttività, pensiamo a che cosa significhi poter fare nell'arco di una giornata 3 o 4 riunioni con interlocutori sparsi nel mondo, anziché perdere un mese di tempo per poterli incontrare. Voi siete un produttore di sistemi, ne esistono altri di produttori, un po' come i telefonini. Ogni telefonino riesce a parlare con un altro telefonino, esistono degli standard e quindi tutti possono parlare indipendentemente dal sistema utilizzato. Vale la stessa cosa per i sistemi di videoconferenza? Cioè, vi siete messi d'accordo oppure no? Sì, assolutamente sì. Nel senso che esiste un istituto che è l'International Telecommunication Union che si occupa proprio di ratificare gli standard. Thunberg per filosofia ha una soluzione aperta e standard ed è riconosciuta sul mercato proprio per questo valore, cioè riusciamo anche a mettere in comunicazione mondi proprietari e far sì che effettivamente si realizzi una piattaforma di comunicazione unificata. Senta, questi sistemi sono diffusi o sono ancora una rarità? Tutto ovviamente è relativo. Diciamo che la diffusione nelle aziende in Italia ormai ha raggiunto un buon grado di maturazione, però se lo paragoniamo per esempio all'evoluzione che questa tecnologia ha avuto, all'adozione che ha avuto nei paesi scandinavi o negli Stati Uniti, siamo ancora all'inizio. Faccio solo un esempio per dare un'idea: noi siamo focalizzati, ci concentriamo sull'utilizzo delle aziende, quando invece in questi paesi si parla dell'utilizzo nelle scuole, negli ospedali e in tutte quelle forme nelle quali la comunicazione video può portare un grande contributo. Io recentemente, parlando con una persona italiana che lavora a una piccola azienda, dicevo: beh, però ogni tanto magari vedersi, stringersi la mano può anche essere utile. Lui mi ha detto: sei vecchio, io sono più giovane di lui. Cioè, noi in Italia, mi sembra di capire, tendiamo e preferiamo forse vederci di più rispetto ad altri paesi. Ma allora, diciamo che infatti il video va visto, può essere visto in due modi. Senz'altro oggi il tema delle trasferte e la riduzione dei costi è un tema fondamentale, quindi si capisce molto facilmente perché è utile adottare questa tecnologia. Sul nostro sito, che è www.tumber.it, sono disponibili dei calcolatori del ritorno dell'investimento e se uno lì prova a inserire i propri dati vede come un investimento può trovare il suo punto di ritorno nel giro di pochi mesi addirittura. Detto questo, è vero che è uno strumento per tagliare i costi, a me piace vederlo invece come uno strumento che aumenta la comunicazione e aumenta l'incontro, cioè quello che prima era uno scambio via mail, quindi non in tempo reale, o era una telefonata, si trasforma in un meeting in cui io posso guardare la persona negli occhi, posso vedere il suo linguaggio corporeo, cogliere le sue emozioni e possiamo anche condividere lo schermo del nostro computer, realizzando quindi un incontro ricco di comunicazione. Senta, quanto costano queste soluzioni? A spanne, naturalmente, per capirci. Per semplificare la cosa, diciamo che andiamo da poche centinaia di euro per una licenza software per fare video sul proprio computer, a appunto quelli ai sistemi più sofisticati che possono richiedere investimenti di alcune centinaia, di migliaia di euro addirittura. Per cui la forbice è estremamente ampia, il mercato di riferimento è estremamente ampio, ma anche le applicazioni all'interno dell'azienda. Cioè, la tendenza che si sta riscontrando oggi è che si è consolidato un utilizzo del video come applicazione classica per fare incontri e riunioni, ma ora invece si stanno riscontrando il video applicato ai processi del business. Quindi per un'azienda italiana che ha delocalizzato la produzione in un paese estero è possibile tramite il video controllare la produzione, il prodotto, il prototipo in tempo reale, stando comodamente seduti sulla propria scrivania. Senta, le faccio un'ultima domanda, Dalmazzoni. Se io fossi un piccolo imprenditore e le dicessi, vabbè, ma io uso Skype, certo, lei cosa mi risponde? Ma diciamo che dopo una chiacchierata potrei rispondere due cose. Una è: continua a usare tranquillamente Skype, perché la tua esigenza è veramente un'esigenza quasi da consumer, no? E quindi fai bene a farlo. Oppure potrei dirgli: guarda, ci sono tantissimi strumenti che ti consentano di fare esattamente quello che tu vuoi in maniera professionale, perché se noi sostituiamo un incontro in persona o inseriamo il video in un processo del business, questo elemento video che inseriamo deve rispondere a tutti i criteri che, come dicevo prima, sono di sicurezza, affidabilità, scalabilità, business continuity e così via. Adesso cambiamo argomento, parliamo di bambini. Questo è un tema sempre molto importante, visto che siamo di fronte ad una generazione, una giovane generazione, anzi giovani generazioni al plurale, che si trova a proprio agio all'interno dell'ecosistema tecnologico, che invece a volte spaventa o mette in difficoltà gli adulti. Chiara Di Michele ci racconta alcuni dati che sono emersi da un rapporto dedicato ai giovani e tecnologia realizzato da Eurispes e Telefono Azzurro. Un mondo alternativo a quello reale è il mondo virtuale ed è quello che i giovani di oggi prediligono. Telefonino, iPod, PlayStation e computer sono ormai strumenti indispensabili nella vita quotidiana di bambini e adolescenti. Tra gli 8 e i 9 anni arriva il primo cellulare. Un bambino su 10 ce l'ha anche prima dei 6. I piccoli lo usano soprattutto per chiamare i genitori, ma anche per scattare fotografie, chiamare gli amici e inviare SMS, oppure giocare e girare filmati. A 10 anni mediamente si impara invece a navigare in internet, sebbene quasi 4 bambini su 10 abbiano mosso i primi passi nella rete tra i 6 e gli 8 anni. Secondo lo studio di Eurispes Telefono Azzurro, il computer ce l'ha il 73% dei bambini e più della metà possiede un cellulare. Le percentuali aumentano tra gli under 20, praticamente tutti o quasi hanno telefonino e PC. Una parte consistente del tempo libero la trascorrono su internet. È la rete dunque la parola chiave per comunicare con i ragazzi di oggi? Gian Maria Fara, presidente Eurispes. Sì, in parte la rete, però quella della rete è una comunicazione non comunicazione. È una comunicazione fredda, è una comunicazione virtuale. Quella che conta e che veramente verso la quale bisognerebbe orientarsi è una comunicazione tra persone anche di diversa generazione, ma tra persone. Sembra proprio che oggi comunicare faccia rima con chattare. Dal muretto si è passati alla piazza virtuale e la rete è diventata il luogo di nuovi incontri. 7 adolescenti su 10 fanno nuove conoscenze o coltivano quelle già esistenti in chat, che scalza la posta elettronica. Facebook è tra i primi 10 siti più visitati al mondo. Tuttavia internet è utilizzato soprattutto per cercare informazioni e materiali per lo studio, poi anche per scaricare musica, film, giochi, per guardare filmati su YouTube e per fare acquisti online. È meno frequente invece la partecipazione ai giochi di ruolo e ai forum. Si preferisce leggere blog e giocare con i videogiochi, attività prescelta soprattutto dai maschi. Le femmine invece sono più dedite alla ricerca di materiale didattico. In voga anche il lettore MP3 per ascoltare la musica. La televisione suscita ancora un forte fascino e cresce l'utilizzo del DVD. In questo mondo di tecnologia ecco come cambiano bambini e adolescenti. La sensazione che abbiamo è che si è instaurato questo meccanismo, da una parte, di autoreferenzialità, cioè bambini e adolescenti sufficienti a se stessi, liberi anche dal rapporto con le generazioni più grandi. Un'autoreferenzialità che certamente produce solitudine, produce isolamento, produce distanza. La distanza si crea soprattutto con gli adulti. Ai genitori l'accesso a internet viene spesso precluso. I figli sono consapevoli di saperne di più. Ecco dunque che la rete diventa una sorta di zona franca, prova di adulto, un mondo tutto per loro. Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro. Vediamo da una parte dei ragazzi estremamente preparati nell'ingresso nella rete, però in questa rete loro si ritrovano spesso tra coetanei, spesso in assenza degli adulti, e d'altra parte questo esprime anche, tra l'altro, la loro grande solitudine, ma dall'altra parte anche una capacità di trovare tra coetanei degli spazi nuovi virtuali in cui ritrovarsi, in cui costruire un mondo che però talvolta è un mondo molto virtuale e che non riesce poi a confrontarsi con la realtà, e devo dire che sicuramente su questo versante il mondo degli adulti lo vediamo fortemente lontano e non all'altezza molte volte di quelle esigenze che i ragazzi richiedono. Se vi siete persi qualche parola, beh, c'è la possibilità di riascoltare 2024 online sul nostro sito internet. Dalla prossima settimana, come sempre, lasciate passare il weekend. Dalla prossima settimana ci sarà la possibilità di riascoltare la nostra puntata online. Oppure, se volete riascoltarla subito, dovete andare a trovare la fascia oraria di 2024 nella sezione dedicata agli MP3 sul sito di Radio 24. Tutte le informazioni sono appunto su www.radio24.it, oppure potete inviarci una email 2024, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie anche a Luigi Borghi in redazione, e facciamo gli auguri per un buon 2009. Auguri di buone festività da parte della nostra redazione, ma da parte di tutta Radio 24. Vi auguriamo buon ascolto. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato, nel pomeriggio di Radio 24, tra le 15.30 e le 16.30. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.